La pecora ma anche tipo paura. Ma dunque, ma è 3 anni che veniamo qua, non è mica paura. Viola! Ah.